avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Questa mattina staremo assieme pochissimo tempo. Praticamente sto riempendo lo spazio che manca da qui alla diretta dei funerali dei 4 soldati italiani uccisi in Afghanistan. Già questa mattina, venendo quella radio che è accanto alla stazione Termini, sono passato per Piazza della Repubblica, ho visto i preparativi per le grandi esequie pubbliche. Solamente 2 giorni prima c'erano i manifestanti che andavano a manifestare non so cosa contro la Gelmini. C'ha lo stesso spirito, le stesse facce, le stesse persone, lo stesso clima. Ma non voglio entrare in merito di quello che è l'accadimento pubblico di cui parleranno tra poco i colleghi della redazione, e voglio invece darvi il tema per questa mattina, per questa scarsa mezz'ora che staremo assieme. Oggi è una ricorrenza molto importante per me. Il 12 ottobre del 38 iniziarono le riprese del film del Mago di Oz. Sapete quanto sono legato io a questa storia, che non a caso ho letto questa mattina su Wikipedia, che è una storia che è stata fatta, creata e immaginata per raccontare il clima che si respirava nell'Ottocento in America in un momento particolare di crisi economica. C'era una deflazione, c'era uno spostamento di popolazioni dall'est al nord, dall'ovest al sud e via dicendo. Quindi qui nascono l'idea delle streghe cattive, delle streghe buone legate a una latitudine, legate a una collocazione geografica. Il Mago di Oz è la metafora più essenziale del lavoro che faccio ogni giorno da tanti anni. Il Mago di Oz è il senso di una necessità di fuga, di un'uscita da una situazione opprimente. Non a caso il Mago di Oz, il film che è stato iniziato a girare proprio nella giornata di oggi, inizia in bianco e nero per dare il senso profondo di una realtà non colorata, di una realtà il cui senso del convenzionale, del quotidiano, dell'opprimente, del tedioso, un po' come questa pioggerella autunnale che ha spazzato via in un giorno soltanto tutti i residui che ancora ci teneva attaccati all'estate. L'estate è scomparsa, anche se ancora abbiamo gli stessi vestiti che avevamo a Ferragosto. Ho notato questa mattina con gli stessi pantaloni, la stessa camicia che avevo il giorno di Ferragosto, e siamo ottobre inoltrato. Soltanto la pioggia ha spazzato l'ultimo barlume di piacevolezza estiva di cui ci siamo questa mattina dimenticati. Come Dorothy vuole dimenticarsi, la protagonista Judy Garland, che è già una donna, è orribile in quel film, diciamo la verità, tanto proclamata, ma è una polposa cicciotta quarantenne, anche se magari era molto più giovane, vestita da bambina idiota. Beh, si produce una realtà che, se vogliamo giocare sulla metafora, è molto simile al tedio e al grigiore di tante realtà quotidiane. Le persone in questo momento sono entrate, hanno lambito il luogo in cui lavorano, in cui si producono professionalmente, in cui danno un senso alla propria esistenza. John, ma sai che cosa ha fatto Miss Calcio a Totò? Pensa lei, ti prego, Doro, ti sto contando i pulcini. Ma Miss Calcio, ce lo racconti dopo, cara. Questa 60, vecchia incubatrice 61, si è guastata 62, e stiamo 62, rischiando di perdere un sacco 63, di pulcini. Oh, poveri piccolini. Non permetterai che quella vecchia strega della Calcio l'abbia vinta. Non devi avere paura di lei, ti basta un briciolo di coraggio, nient'altro. Io non ho paura di lei. Allora la prossima volta che si mette a strillare, dille quello che si merita, io farei così. Pochi hanno probabilmente riflettuto sul fatto. Come inizia la giornata di Dorothy? Inizia assatanata da un problema esistenziale profondissimo. La cattiva signora, poi identificherà nella più cattiva delle streghe, è turbata dal suo cagnaccio pulcioso, Toto, bruttissimo cagnolino. Ieri è stato massacrato un tassista semplicemente perché erroneamente aveva falcidiato il cagnolino di una ragazza. I coatti amici hanno pensato bene a ridurlo in fin di vita. 800240024, se qualcuno comunque vuole approfittare di questo breve lasso di tempo per parlarmi della sua giornata da Dorothy, che esce, che fugge dalla sua realtà, per andare poi in una realtà altrettanto opprimente e altrettanto finta, altrettanto priva di realtà come quella del Mago di Oz, chiami pure questa mattina, risponderò. Se l'argomento vi appassiona lo continueremo un'altra volta. Dicevo, da dove nasce Dorothy? Dorothy nasce da una famiglia di contadini. i cui zii non la stanno a sentire per il problema che affligge la sua giovane esistenza, perché si è rotta la vecchia incubatrice e stanno travasando i pulcini dall'incubatrice, una cassetta di legno che li teneva in calore, sotto una chioccia, e stanno portando questi pulcini uno dopo l'altro sotto la gallina. In quel momento il loro problema è quello: salvare la vita a più pulcini possibili, perché saranno galline a cui bisogna tirare il collo che faranno le uova. Dorothy cerca di coinvolgerli nel suo problema del cagnolino vituperato dalla vecchia signora, ma facendo questo si mischia alle attività quotidiane di quella fattoria e cade nel recinto dei maiali. La ragazzina Dorothy sprofonda nel liquame dei maiali. Non so chi di voi abbia mai frequentato le campagne, non esiste nulla di più contaminante che il liquame di una porcilaia. Per mesi, anni, quando si dismette la porcilaia rimane quell'odore, rimane quel sentore, rimangono quelle ombrichi che escono fuori dalla terra laddove i maiali hanno accumulato il loro strame. Il maiale è animale schifoso, animale detestabile, animale impuro e reietto, proprio per il fatto, oltre che avere lo zampettino diabolico, di produrre un liquame enorme, di gorgogliare, vivere nel proprio liquame. E la sua risurrezione sotto forma di prosciutto, di salame, è proprio il segno della catarsi, la palingenesi. Dallo strame viene fuori qualcosa di divino, come appunto l'esito del maiale risorto. Beh, Dorothy viene estratta dalla porcellaia, vestita, pulita, non c'è nemmeno un capello fuori posto. Sì, un posto dove non cacciarmi nei guai. Tu credi che esista un posto del genere, Totò? Deve esistere. Certo, non ci si potrà arrivare con un piroscafo o con un treno. Deve essere molto, molto lontano. Oltre la luna. Oltre le nuvole. Chissà quante piccole Dorothy, quarantenni, cinquantenni, trentenni, mi stanno ascoltando in questo momento, incontaminate dalla porcellaia in cui vengono immerse ogni mattina. Anche loro sognano di salire sull'arcobaleno, di andare lontano verso un paese che possa capirle, possa comprenderle, possa essere all'altezza delle loro aspettative, dei loro desideri. Dorothy nel film viene rapita dalla sua triste realtà e portata nel mondo dei sogni, nel mondo del sentiero dorato, nel mondo del verde palazzo dove potevano venire realizzati tutti i desideri, da un tornado. Il tornado la prende, la porta via, la rapisce. E quanti di voi in questo momento che ascoltano sarebbero tentati a lasciarsi andare al tornado? Oggi è la giornata meno adatta per lasciarsi andare ai tornadi. È una giornata triste, una giornata di lutto, una giornata in cui la città è attraversata da questo senso di tragedia lontana che lambisce semplicemente la crassa, opulenta, quotidiana vita della città. Piazza della Repubblica è la piazza in cui viene manifestato il dissenso, viene manifestata la partecipazione, viene manifestata la condivisione di un momento di particolare afflizione. La città in quel punto oggi era piena di soldati. Già una scena simile l'ho vista qualche settimana fa, che era accaduto un episodio analogo. Improvvisamente i soldati si riversano nella città, si vedono le divise, si vedono le medaglie, si vedono le uniformi, si vedono i mezzi, e si capisce che in realtà questa realtà così esorcizzata, così lontana, così diluita dalla nostra esperienza personale, oggi non si fa più nemmeno il servizio militare. Oggi il militare è qualcosa di idealizzato come un paladino della pace, e quando tornano invece dei militari dentro la cassa, dei militari morti, ci si rende conto che la guerra in realtà è qualcosa che è sempre stato vicino, qualcosa che la mia generazione ha esorcizzato, ha tenuto lontano. I primi bombardamenti che ci furono in Iraq, mi ricordo, furono uno shock, che per noi l'ultimo ricordo, l'ultima sfumata impossibile della guerra, erano ancora i ricordi dei bombardamenti dei nostri genitori. Beh, tornando invece a Dorothy. Dorothy, quando si trova finalmente nel mondo del mago di Oz, Oz leggo su Wikipedia che in realtà era l'abbreviazione di l'oncia d'oro, era il senso di riscatto da una crisi economica. Quindi il mago di Oz era colui che forse avrebbe potuto sottrarre le persone dall'angustia di un momento di problemi legati all'economia. Beh, arriva finalmente il mago di Oz. Non sto a entrare nei particolari degli amici che incontra, questi tristi personaggi: non gli manca il cuore, non gli manca il cervello, a tutti manca qualcosa e tutti cercano qualcuno che miracolosamente possa compensare di ciò che gli manca. E trovano cosa? Trovano il mago di Oz. Massimo, buongiorno. Sì, ma sto fuori perché sono al telefono. Massimo? Sì, eccomi qua. Perché sei offeso? No, beh, a parte l'affinità elettiva mia personale col maiale nel quale mi riconosco. Guarda, io ho allevato e scannato maiali sin dalla tenera età, quindi figuri. Bene, allora sa già sono umbro. Il maiale è un animale intelligente e pulito in sostanza. Beh, pulito, cioè... oddio, pulito. L'animale può essere anche pulito, gozzoviglia nei suoi liquami. No, questo che sta dicendo è falso. Il maiale, al contrario del cane, sì, defecca da una parte e mangia dall'altra. Certo che se poi uno lo costringe in spazi angusti, il maiale di suo è un animale intelligente. Io le porcilaie che mi ricordo ai miei tempi, dei contadini umbri, erano 2 metri per 2 metri, dove c'era di tutto. Ora, per forza, anche a me se mi mettono in 2 metri per 2 metri finisce che mangio dalla faccia. Ma questa però è la realtà da cui vengo, io le avrei da grandi allevamenti di maiali intensivi. No, io allevavo 5 maiali per uso personale, modiche quantità. Scusi, ma quante volte al giorno gli puliva lo strame? 3. Lei è molto bravo, io lo vedo fare la sera ogni tanto. Venivano coi forconi, portavano via, buttavano in concimaia, uno schizzo d'acqua e finiva lì. L'animale di bassa corte, nel quale io includo anche il maiale, fa la fine che fa, ma prima di fare quella fine deve essere tenuto come va tenuta una creatura, e quindi va tenuto pulito. Ma infatti viene lavato e poi una volta scannato viene ben spellato con l'acqua bollente, quindi poi torna pulito. I miei erano puliti già al momento del trapasso, erano dignitosamente puliti. Lei c'ha i maiali perfetti, 3 porcellini alleva. Io sono abituato che i maiali puzzano, sono buoni dopo mangiati. Comunque non vorrei entrare adesso nello specifico del maiale, considero riscattato il maiale dalla sua gloriosa fine. Il maiale quando risorge, quando si immola, quando già viene visto con l'occhio come se fosse quelle miniature che mostrano i quarti posteriori, inferiori, i pezzi da tagliare. Il maiale è un animale che si smonta, vorremmo essere noi esseri umani esseri smontabili, con pezzi di ricambio, con pezzi che possano gratificare il nostro prossimo, ma ogni pezzo da cui ci separiamo lo facciamo sempre con molto dolore, anche se la separazione è momentanea, metaforica, e rimane sempre qualcosa di attaccato a noi. Posso picchiarvi stando con una zampa legata dietro? Posso picchiarvi stando su un piede solo? Posso picchiarvi anche ad occhi chiusi? Oh. Vuoi colpirmi con l'ascia? Vuoi colpirmi alle spalle? Provaci. No, ti prego, non farci del male. Hai paura, eh? Hai paura, eh? Ti sei messo in scatola per restare a fresco. È bello che poi il paese delle meraviglie in cui viene proiettata Dorothy è pieno di vigliacconi, è pieno di millantatori, è pieno di persone che vorrebbero essere quello che non sono. E il primo esempio è questo leone, che vorrebbe spaventare tutti, vorrebbe essere cattivo, in realtà è un codardo, in realtà è peggio di un agnello, in realtà è un grande vigliaccone. E anche lui andrà poi alla questo, alla ricerca di qualcuno che possa ridargli la compattezza, possa ridargli il vestito giusto per mostrarsi come leone, come anche l'essere di metallo, come anche lo spaventapasseri. A tutti manca qualcosa, chissà perché l'uomo di latta vuole un cuore, chissà perché lo spaventapasseri vuole un cervello, perché nessuno si accontenta dello status in cui è collocato, non diventi il re degli spaventapasseri senza cervello, il re degli uomini di latta senza cuore, il re dei leoni senza coraggio. No, tutti vogliono qualcosa in più. In fondo la rappresentazione poi del piccolo sogno della piccola Dorothy, che esce immune e illibata dal liquame dei maiali, è quello proprio di trovare un mago, di trovare un grande turlupinatore che la faccia illudere che il mondo possa cambiare per lei, ma in realtà il mondo non cambia per lei. Hai solo trovato un grande illusionista che ti fa credere che tu possa essere diversa da quella che sei. Non destate la collera del grande potente Oz, ho detto tornate domani. Se lei fosse davvero grande e potente, manterrebbe le sue promesse. Osate dunque criticare il grande potente Oz? Oh, ingrate creature, potete già considerarvi fortunati se vi concedo udienza per domani e non tra 10 o 20 anni. La cosa che tutti forse non ricordano, nemmeno io ricordavo, che ognuno dei personaggi vede il mago di Oz con occhi diversi. Nella città di Smeraldo Dorothy lo vede come un grande capoccione verde da cui esce un vocione, fumo. Il leone lo vede, mi sembra, come una donna meravigliosa. Ognuno lo vede in modo diverso. Il grande turlupinatore, il grande illusionista, assume varie forme. Quindi nel momento fatidico in cui saranno di fronte al mago di Oz, avete sentito in quale spocchia, ringraziate Dio che vi ho dato appuntamento domani, potrò darvelo fra 10 anni. Quante volte siete trovati di fronte a questa situazione? L'impossibilità di reperire una persona, l'invisibilità, la pantegana invisibile, l'essere potente, l'essere fascinoso, l'essere desiderato che vi sfugge, che si sottrae. È sempre lui il mago di Oz, sempre lui il grande turlupinatore. Il grande potente Oz ha parlato! Non fate caso a quell'uomo nascosto dietro alla tenda! È lei? chi è? E chi sono io? Io sono il grande potente mago di Oz. Sul serio? Certo. Non sì. posso crederci. E invece la verità, qui non esiste nessun altro mago oltre a me. Brutto e broglione. Brutto. E qui si scopre l'arcano, e qui è il rovello della mia vita, e qui è la chiave insondabile del fatto che io stia qui, vi parli, voi mi stiate ascoltando. Il mago di Oz omettino, è un ventriloquo nel libro, un ventriloquo che è una specie di inventore pazzo, di imbonitore di piazza, con una mongolfiera è arrivato anche lui nel paese, appunto, della città di Smeraldo, e si è improvvisato mago di Oz. Vive in questa sua grande struttura, in questa sua macchina, che amplifica la sua voce, lui dentro con leve, pulegge, marchingegni, nascosto da un piccolo tendaggio, manovra la macchina, ma un omettino piccolo con il redingot, è un umarell. Ecco, il mago di Oz è un umarell. La chiave risolutiva del mistero del mago di Oz è che è l'umarell. L'umarell che si è costruito nel suo garage, prendendo l'immaginario di Danilo Maso Masotti, la macchina per essere grande. È l'umarell che nel suo garage, con il Black Decker, con le seghette, con gli avanzi di qualche macchinario andati a spiluccare nei cassonetti notte dopo notte, si è costruito la macchina delle meraviglie. E un umarell è quello che dovrebbe dare l'illusione a Dorothy e a tutti i suoi amici di essere qualcosa. Cosa che non sono. Scoperto dal cane, il cane solleva il tendaggio e ci si accorge che la voce potente, l'aspetto carismatico del mago di Oz era dato dalla macchina. Come dalla macchina in cui sto parlando è dato il senso che io stia a parlare e voi stiate ad ascoltare. Da quanti maghi di Oz siete circondati? Quante sono le macchine meraviglie che possono essere smontate, decostruite per far capire chi sia dietro la macchina che dimostra che qualcuno può darci delle risposte, qualcuno può aiutarci, qualcuno può risolvere il nostro problema, in realtà è un uomo come noi, anzi è un umarell, che è qualcosa di molto meno che un uomo. Sì, imbroglione è la parola giusta, sono un imbroglione. Lei è un uomo molto cattivo. No, bambina mia, io sono un brav'uomo, te l'assicuro, solo che sono un pessimo mago. Avevi promesso di dare il cuore al boscaiolo di latta e di dare il coraggio al leone codardo. Il cervello lo spaventoso. Ma in fondo tutti possono avere un cervello, è una merce assolutamente comune. Tutti ce l'hanno, ogni più piccola creatura che striscia sulla terra o che nuota nelle acque. E questa, l'infame calunnia del mago di Oz, tutti possono avere un cervello, tutti possono avere un cuore, tutti possono avere coraggio, non è esattamente così. Esistono persone che vivono benissimo senza cervello, e questa è la grande lezione che in realtà dovremmo prendere dal mago di Oz. A domani. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.